Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Cinquant'anni fa, Luchino Visconti stava lavorando ad un adattamento cinematografico dei Promessi Sposi su sceneggiatura di Giorgio Bassani e Suso Cecchi D'Amico. Ma del progetto che lo aveva impegnato per ben 8 anni non se ne fece nulla. Che cosa era successo? Un dispaccio ANSA del 29 gennaio 1962 diede un annuncio che passò inosservato. La notizia sembrò minima. Una delle tante sulle incompiute di un artista. L'agenzia di stampa comunicava semplicemente che Luchino Visconti aveva definitivamente accantonato il suo vecchio progetto di portare sugli schermi il romanzo di Manzoni. La decisione doveva essere stata repentina. Neppure un anno prima, l'agente di Visconti, Olga Ostrig Primus, aveva messo in scaletta gli impegni del regista e aveva annunciato che, dopo le riprese per Il Gattopardo, Visconti avrebbe messo mano ai Promessi Sposi. Il Gattopardo arrivò sugli schermi nel 1963. Dei Promessi Sposi non se ne parlò più. Eppure il romanzo di Manzoni aveva impegnato Visconti per ben 8 anni. Troppi per passarci sopra. E non irrilevanti per un regista che amava definirsi un lettore lombardo, abituato per tradizionale consuetudine al limpido rigore della fantasia manzoniana. Tutto era cominciato nel 1954. Batté la notizia a Giancarlo Vigorelli sulla rivista del Cinematografo. «Vedo che la Lux Film annuncia nel suo bollettino pubblicitario una nuova edizione dei Promessi Sposi. Bisognò aspettare 2 anni perché la stampa si occupasse degli sviluppi del progetto». Il notiziario di Cinema Nuovo del luglio 56 sostò sull'argomento e andò ai dettagli dicendo: «Giorgio Bassani e Suso Cecchi D'Amico hanno terminato la sceneggiatura dei Promessi Sposi». Non si sa ancora se la Lux, che ha inserito la produzione di questo film fra i suoi programmi, si deciderà a realizzarlo e, in caso positivo, quando. Il lavoro vero e proprio di sceneggiatura è stato preceduto da un'inchiesta svolta fra una decina e più di scrittori e letterati italiani, diretta a ottenere valide indicazioni circa il modo migliore di procedere alla riduzione del romanzo. Tale riduzione doveva, nelle intenzioni dei produttori, rispondere essenzialmente al criterio di cavare dal romanzo del Manzoni una storia chiara, comprensibile a un pubblico internazionale. Dopo l'inchiesta, Bassani era stato incaricato di occuparsi del trattamento del romanzo. Il testo venne consegnato nel 1955. La Lux aprì una seconda inchiesta, stavolta sul trattamento di Bassani. Il materiale inedito si trovava nell'archivio di Visconti, presso la Fondazione Istituto Gramsci di Roma. Nel 1956 era pronta la scaletta del film, scritta da Bassani e Suso Cecchi D'Amico, che prendeva atto delle reazioni suscitate dal trattamento e provvedeva a sistemarle in una nuova proposta che salvaguardasse la collegialità dell'impresa. Il trattamento di Bassani era risultato troppo personalizzato. Una sua storia milanese e laica, con un Renzo sopravvissuto alla peste come un reduce alle persecuzioni e ai disastri della storia. Bacchelli si era dichiarato deluso per l'esclusione dalla storia del segreto della provvidenza. Colquhoun, che aveva tradotto in inglese i Promessi Sposi, si era rivelato conciliante. Baldini avrebbe voluto più autonomia dal romanzo. Cecchi, maggiore aderenza letterale. Moravia aveva invocato un po' di peste in più. Alle due inchieste avevano partecipato molti amici di soldati, ma nessuno di loro si augurava che il film finisse nelle sue mani. Vi avevano preso parte molti amici di Visconti, che a lui avrebbero però preferito Fellini. Il 2 gennaio del 1956, il direttore di produzione cinematografica, Libero Solaroli, scrisse a Guglielmo Alberti che molta parte aveva avuto nella prima inchiesta «Inorridisci, il regista sarà probabilmente Visconti». A Visconti aveva sempre pensato la Lux, che aveva voluto ricomporre il trio Bassani, Cecchi D'Amico, Visconti nel film «Senso». Vigorelli, nel caldeggiare un ritorno cinematografico dei Promessi Sposi, sul quindicinale Cinema aveva scritto: «E Luchino Visconti, in questi giorni, non sta forse applicando nel cinema una legge manzoniana? Girando senso, egli ha voluto che la storia d'amore dei due protagonisti avesse alle spalle, come a segnarne la moralità, un avvenimento meno privato, la guerra. Visconti non fece il film. La Lux aveva già iniziato il suo declino. Il Gattopardo era costato troppo. Non erano tempi. Rimasero nelle mani di Visconti le carte del progetto, malinconiche, quasi un rimorso. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Salvatore Silvano Nigro dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. Tra l'indifferenza generale di governi e opinione pubblica, nei giorni scorsi è scomparso Zapata, dissidente cubano in carcere da 7 anni per avere espresso idee contrarie al regime. Raul Castro, come prevedibile, si è subito affrettato a dare la colpa agli Stati Uniti. Si chiamava Orlando Zapata Tamayo. Era in un carcere cubano dalla primavera del 2003, 7 anni, insieme ad altri 75 dissidenti perseguitati con accuse risibili, in sostanza perché non allineati alla disciplina imposta dalla dittatura castrista. Zapata è morto in un ospedale della Habana dove era stato tardivamente ricoverato dopo 85 giorni di sciopero della fame. Apparteneva a un gruppo chiamato Movimento per l'Alternativa Repubblicana, che reclamava un briciolo di democrazia a Cuba. Per questo era stato condannato a 36 anni di carcere, ripeto, 36 anni di carcere. Condanna ulteriormente inasprita con l'aggravante del vilipendio alla figura del comandante Fidel Castro. Ne ha dato notizia Yaoni Sanchez, la blogger che qualche mese fa è stata fermata in strada e maltrattata dai pretoriani del regime e che non è potuta intervenire alla presentazione del suo libro alla Fiera di Torino perché gli aguzzini di Castro gliel'hanno impedito. Purtroppo grava sulla dittatura un'atmosfera di sospensione, come se si attendesse il suo epilogo naturale con la scomparsa del tiranno, promessa di una nuova stagione democratica all'Havana. Perciò l'indignazione per la ferocia di un regime che commina 36 anni di carcere a un dissidente viene fatalmente attenuata. Ci vuole pazienza, sembra dire la comunità internazionale. Qualcosa cambierà presto, confida chi nel mondo si batte per il rispetto dei diritti civili. Stare dalla parte di Orlando Zapata appare come un'opzione velleitaria, un'insana fissazione, il frutto di un'impazienza esagerata. Però è un fatto che i riflettori del mondo, fortunatamente accesi quando la giunta militare in Birmania perseguita e malmena i monaci che scendono in strada, sono spenti sulla vergogna che si consuma quotidianamente a L'Avana. Un'indifferenza gratuita, nemmeno motivata dalla necessità di salvaguardare i nostri affari, come capita con Teheran. Un silenzio spontaneo dei governi e dell'opinione pubblica, mentre un poveretto a Cuba fa lo sciopero della fame per attirare l'attenzione del mondo, un altro impaziente e velleitario, che sa che persino i suoi aguzzini, preoccupati per la fine imminente del tiranno, non gli abbiano chiesto di pazientare ancora un po', in gattabuia. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista, Cuba, se la morte di un dissidente sembra un atto di impazienza, dal Corriere della Sera del 25 febbraio. Per un anziano criminale condannato alla sedia elettrica senza più speranze di ottenere la grazia, la più grande soddisfazione è riuscire a morire di vecchiaia prima dell'arrivo del boia. Un'eventualità alquanto improbabile, ma che si è verificata nei giorni scorsi in Arizona. Questo vecchio bastardo sopravviverà ai suoi persecutori, aveva giurato viva Leroy Nash a un giornalista del Los Angeles Times. Venerdì, 12 febbraio, c'è riuscito. Ha chiuso gli occhi per l'ultima volta nella cella numero 39 del penitenziario di massima sicurezza di Florence, Arizona. Aveva 94 anni. Era il più anziano inquilino di un braccio della morte degli Stati Uniti. È morto di vecchiaia, gabbando il boia che lo attendeva da quasi 30 anni. Nash non era vittima di una sentenza ingiusta e non era un delinquente occasionale. Ha dedicato tutta la sua vita alla criminalità, incappando nella prima denuncia per un furto di bicicletta quando aveva 7 anni. A 15 finisce per la prima volta dentro, nella prigione di Leavenworth, Kansas. È il 1930, 3 anni prima dell'insediamento di Franklin Delano Roosevelt alla Casa Bianca e della nomina a cancelliere di Adolf Hitler. Dentro, da allora, Viva Leroy Nash ha passato quasi tutta la sua vita. 65 anni di galera in tutto, qualche mese fuori grazie alla libertà condizionata e a 4 evasioni. Poche ore d'aria. Usciva giusto il tempo di delinquere e farsi pizzicare. E invecchiando, Nash peggiora. La prima condanna per omicidio è del 1977. Poi uccide di nuovo, poche settimane dopo l'ultima evasione. Ha 67 anni. Compra una tessera dell'autobus per anziani e fa fuori il commesso di un negozio di monete antiche. Il delitto questa volta lo porta nel braccio della morte. Viva Leroy Nash era sordo, semicieco, paralizzato e, a sentire il suo avvocato, anche demente. Ma non ci crede nessuno, perché per 26 anni ha dilatato con maestria i tempi della prigionia attraverso un'infinita serie di appelli e ricorsi, dilettandosi nel contempo a scrivere lunghe e articolate lettere alla stampa americana, da protagonista del dibattito sulla pena di morte. Usava espressioni gergali arcaiche, estinte da anni, residui del selvaggio West in cui aveva imparato a delinquere. Se n'è andato da fuori legge, senza confessare né rimpianti né rimorsi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luigi Spinola, Fregare la pena di morte morendo, dal Riformista del 16 febbraio.